Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:06, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia il riposo del guerriero. Oggi ci riposiamo veramente molto poco, dovrete e dovremo muoverci, dovremo far muovere il nostro corpo e poi vi spiegheremo perché. Certo, se avete già consultato la nostra pagina di Facebook, quella del riposo del guerriero, già sapete l'argomento, ma tra poco lo comunicherò a tutti. Voglio ricordarvi che anche oggi intorno alle 11:40 giocheremo con Miro in 24 minuti, per voi la possibilità di portare a casa il catalogo della mostra a Genova e anche il biglietto d'ingresso, se riuscite ad associare la canzone che sto per farvi ascoltare a una delle opere di Miro. È una canzone di molti anni fa, avrete riconosciuto Caterina Caselli, questo è Il Carnevale, ed è legato a una delle opere di Miro, dovrete capire a quale per portarvi a casa il catalogo della mostra, questo più tardi alle 11:40 circa. Vi do il numero verde per prenotarvi, potete farlo già da adesso, 800 24 00 24. Avremo anche la nostra Francesca Dragotto, la nostra glottologa, oggi cercherà di analizzare il modo di comunicare dei 5 candidati alle primarie del PD, per capire appunto ognuno di loro come comunica, e quindi questo più tardi intorno alle 11:15. Ma oggi nel riposo del guerriero parleremo di corpo, parleremo del linguaggio del corpo, il corpo che si muove, che comunica e che racconta. Vedremo quindi quali sono le arti, parleremo di danza sicuramente, ma non soltanto di questo. E quindi se volete già scrivere i messaggi 349-238-6666, e per dar vita a questa puntata ho scelto Litfiba. Cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Tu dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione, è una strana sensazione, in un bagno di sudore, è il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Thank you. Intanto questa canzone descriva perché il corpo cambia, il corpo comunica sicuramente e il corpo racconta. Di questo oggi parliamo con Rino De Pace, che ringrazio. Ciao Rino, buona domenica. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, tu sei direttore artistico di Milano Oltre, parleremo poi di questo festival. Certo. Sei stato, hai collaborato anche per molti anni alla programmazione della Biennale di Venezia Danza. Esatto, sì. E però raccontiamo perché curiosamente tu non nasci come danzatore. Assolutamente no. Come hai cominciato? Diciamo che io sono arrivato a Milano nell'85. Sì. E sono arrivato qui per lavorare al Teatro dell'Elfo. Era un lavoro che inizialmente sarebbe servito per mantenere i miei studi di lingue straniere, che non ho mai completato se non poi presso la scuola interpreti qui a Milano. Ho cominciato a lavorare sulla produzione della compagnia del Teatro dell'Elfo. Sì. Quindi a stretto contatto con Elio De Capitani, Gabriele Salvatore, Ferdinando Bruni, in un anno in cui c'erano tanti fermenti, no? Oltre alle necessità produttive del teatro, della drammaturgia contemporanea, all'Elfo c'era questa necessità di proporre qualcosa che andasse oltre il tradizionale, oltre il solito, che fosse una novità per la città di Milano. Stiamo parlando degli anni, della metà degli anni Ottanta, quindi degli anni di grande fermento. Siamo a Milano da bene. Esattamente. In quel momento, sì. E forse anche per quello si sentiva, appunto, c'era questa esigenza di far vedere che cosa c'era oltre i confini cittadini, del teatro, regionali, del nazionali, sì, eccetera. Casualmente. Non c'era internet, diciamo, no, che quindi non c'era la possibilità. Ma di... c'era appena stata l'esplosione dei video musicali, ma era insolito trovare anche dei video di spettacoli di teatro, erano rarissimi, erano pochissime compagnie quelle che potevano permettersi una produzione video che poi mandavano in giro per diffondere il proprio prodotto, ma altrimenti bisognava andare e vedere gli spettacoli, non c'era altro modo. Verso. Sì. Quindi dicevo, questa esigenza dell'Elfo casualmente coincideva con l'esigenza di un altro teatro, per certi versi simile, perché è un teatro molto attento alla drammaturgia contemporanea, il Teatro di Porta Romana. Quindi diciamo due teatri della città di Milano che insieme hanno deciso, andando a proporre agli enti istituzionali della città, comune, regione, provincia, questa avventura artistica, che è nata tra l'altro con uno slogan che è una frase di Italo Calvino: esiste un altro teatro oltre il mio teatro. E è stata un'avventura bellissima, è ancora un'avventura bellissima. Curiosa, perché diciamo che questi personaggi che ti ho citato prima, appunto Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, dal Teatro di Porta Romana Fiorenzo Grassi, Gianni Valle, Ornella Crespi, sono tutte persone che magari si occupano di arte, no? Però all'epoca, in quel 1985, avevano coperto delle responsabilità completamente diverse dal loro ambito. Elio De Capitani era responsabile della parte tecnica, Fiorenzo Grassi dell'ospitalità e dell'accoglienza. Tutto questo era tenuto insieme da un personaggio, Tomas Arana, attore di Falso Movimento, la compagnia di Mario Martone, si chiamava così tantissimi anni fa. Tomas Arana, per intenderci, è un attore piuttosto noto oggi, che lavora negli Stati Uniti, ed è il cattivo di Bodyguard, il film con Whitney Houston. Quindi Tomas Arana ha fatto da consulente artistico ed è stata messa in piedi la prima edizione di Milano Oltre, che ha portato a Milano nomi come La La La Human Steps di Edward Locke, una delle compagnie quebecchesi più note in questo momento. Il Wooster Group di Elizabeth Lecomte. Il Wooster Group era un gruppo di teatro molto alternativo americano, di cui faceva parte niente di meno che Willem Dafoe, l'attuale attore che conosciamo tutti. Quindi all'Elfo sono passati personaggi, insomma, di calibro non indifferente. Ecco, poi sentiremo un po' come alla fine tutto questo poi si è propagato, no? In Italia, ovviamente, perché si lancia, diciamo così, si propone qualcosa di nuovo, che deve essere anche capito dal pubblico. Bisogna vedere se il pubblico poi di quel dell'85 l'aveva capito meno, a quanto pare sì, visto che poi si sta continuando, e insomma, che cosa abbiamo? Cosa è stato proposto di così nuovo? Perché appunto il corpo si propone in modi assolutamente diversi. Abbiamo gli aggiornamenti sul traffico e continuiamo a parlare poi con Rino De Pace. Il riposo del guerriero. Parliamo di corpo in movimento nel riposo del guerriero. C'è Rino De Pace, direttore artistico di Milano Oltre, in questo momento con me. Rino, allora tu dicevi, se nasci tra virgolette dietro le quinte, sì, diciamo così, e ancora adesso sei dietro le quinte, non sei sul palcoscenico, no. Però la danza non faceva ancora parte della tua vita. A un certo punto invece ha cominciato a farne parte, ti è entrata, tipo... Sì, diciamo che nel codice genetico di Milano Oltre c'era, sì, questa idea, questo desiderio di proporre a Milano delle cose non viste. Parliamo di teatro, parliamo di musica, parliamo di danza. Negli anni in cui appunto ho avuto modo di lavorare, vedere, conoscere, la disciplina che mi ha affascinato di più, quella che nella quale maggiormente mi sono ritrovato, ho provato le emozioni più grandi, è stata proprio la danza. Una danza che ha coperto, stiamo parlando di 26 anni di storia, e siamo alla 26esima edizione, se aggiungiamo anche gli anni che ho trascorso a Venezia lavorando per il settore danza della Biennale, sono 11. Insomma, c'è un bel... Ecco, questo che ha permesso... un bel visto. Non diciamo che età, infatti, ma voglio dire, questo poi ti ha permesso di conoscere, di capire cos'è cambiato. Cos'è cambiato in questi 30 anni, dico bene? Calcolo giusto, sì. Beh, sì, diciamo 26, sì, di cui 11, sì, insomma... Sì. Cos'è cambiato nel mondo della danza proposta al pubblico? Beh, se è cambiato qualcosa, ovviamente. Diciamo che alcuni codici sono rimasti gli stessi, no? Sì. Quelli del balletto sono quelli, ecco, di poi allora. Ecco, poi col prossimo, sì, ospite, con Matteo Levaggi, noi poi parliamo proprio di quella, certo, la differenza fra, certo, danza e balletto. Diciamo che le storie sono rimaste le stesse. Secondo me quello che è cambiato innanzitutto sono gli strumenti e le tecnologie di cui la danza si serve oggi per esprimersi, no? Per arricchire quello che vuole raccontare, quello che vuole proporre. Siamo passati negli anni in diverse fasi anche di linguaggi corporei, non so, ci sono stati dei paesi dove per esempio la danza ha avuto degli exploit, parliamo della Francia, parliamo del Canada, ci sono state delle fasi in cui è stata spacciata per danza una forma d'arte che in realtà... è un'opinione personale, sì, sì, certo, giusto, io non considero tale, nel senso che la considero una forma d'arte, ma una forma d'arte diversa, non danza, esattamente, okay, danza. E parliamo della non danza, viene definita proprio così, in questa maniera, sì. C'è stato il teatro danza, nato sulla scia di una grande, grandissima artista che purtroppo non è più con noi, parliamo di Pina Bausch, che ha influenzato, secondo me, a livello mondiale il linguaggio del teatro danza italiano, ecco, se avete europeo. Lì sotto l'altro il film documentario, insomma, esatto, dal mio punto di vista straordinario, sì, però sì, sì, anche chi non ama o non conosce la danza lì può cominciare forse ad amarla e, esatto, a capirla. Sì. Matteo Levaggi, buona domenica. Buona domenica, buongiorno a tutti. Matteo è coreografo stabile del Balletto Teatro di Torino, co-direttore artistico della Lavanderia Vapore di Collegno. Allora Matteo, intanto volevo chiederti una cosa. Sì. La differenza, la grande, se c'è ovviamente, ma credo proprio di sì, tra quello che si definisce il balletto e quella che si definisce danza. Credo che ovviamente il balletto si riferisca al grande repertorio classico, quindi ai grandi balletti, il Lago dei Cigni, la Bella Addormentata, lo Schiaccianoci, quindi vivono di un codice, diciamo, di una codificazione proprio anche nei passi, molto precisa e che viene tramandata negli anni. La danza forse è qualcosa di più contemporaneo, di più moderno. moderno, quindi che si rifà ai coreografi odierni, che creano appunto oggi dei pezzi nuovi per danzatori e via dicendo. Ecco, quindi il corpo si muove ovviamente con canoni differenti rispetto alla danza classica. Quello che volevo chiederti è, il danzatore oggi deve comunque nascere dal balletto, cioè la formazione deve essere parte sempre, o nella maggioranza dei casi, dalla formazione di danza classica, oppure no? Uno può cominciare dedicandosi esclusivamente alla danza contemporanea. Questo dipende un po' dalla volontà del coreografo. Sì. Del coreografo. Ci sono dei danzatori che ovviamente nascono dalla danza classica, che hanno fatto tutto il percorso di studi tradizionale, ma ci sono anche quelli che vengono chiamati movers, quindi dei danzatori che hanno dentro di loro grandissime capacità di movimento, che poi appunto il coreografo riesce, diciamo tra virgolette, a sfruttare, a portare in scena in qualche modo. Questo è molto utilizzato, anche grandi coreografi come Forsyth hanno in compagnia danzatori che non hanno studiato magari il balletto, ma hanno proprio dentro di loro grandissime capacità di movimento. Ecco Matteo, senti, visto che tu hai a che fare, essendo coreografo, con moltissimi ballerini, danzatori in genere, volevo capire com'è cambiato l'approccio, se c'è più preparazione, più... Il talento, beh, quello dipende dalle persone, però che tipo di approccio c'è, ecco, verso quest'arte? Se secondo te nel corso degli anni è migliorato, oppure è così un po' più superficiale? Qua è una bella domanda questa, perché... Te l'ho fatta apposta. No, perché diciamo che oggi al danzatore si richiede moltissimo, sì. Si richiede potenza, salto, giri, gambe, piedi, si richiede un'estetica molto bella, molto forte. E questo però, vedendo anche quello che viene pubblicato su Facebook o nei media, diciamo, sì. Su internet, crea una patina di superficialità, credo, perché alla fine diventa appunto un pochino troppo estetizzante, ecco, quando invece ci sono dei danzatori che magari non hanno tutto quell'estetica, quella cosa, che però trasmettono moltissimo in palcoscenico. Ecco, forse Pina Bausch, abbiamo citata prima, è anche questo, cioè non era tanto l'aspetto estetico, ma quello che il corpo è riuscito a comunicarti, al di là della bellezza tout court, no? Assolutamente, sì, assolutamente. Senti Matteo, la televisione anche, cioè noi gli italiani sono stati abituati a vedere il balletto grazie alla televisione, che ce l'ha sempre proposto, no? E quindi è cambiato anche quello, intanto perché tanti ballerini comunque sia lavorano un po' meno, perché la televisione una volta dava molto lavoro ai ballerini in generale, perché li trovavamo in tutte le trasmissioni televisive. Oggi invece diciamo che la cosa è molto più relegata a un quadretto, e insomma è molto diversa dal passato. Voglio capire se questo ha aiutato oppure no, cioè nel senso, ha aiutato a cambiare anche il modo di pensare rispetto alla danza, perché una volta per noi il balletto era quello che vedevamo in televisione, non c'era altro, e quindi oggi, visto che manca, ci ha aiutati ad aprirci la mente, oppure in realtà ci ha allontanati proprio dalla danza? Ma credo che una volta ci fossero dei balletti estremamente professionali, c'erano ore e ore di cura, di lavoro, sì. Di lavoro, c'erano molti soldi, quindi si potevano avere danzatori veri. Oggi, cioè, la danza in televisione non esiste. Io ho fatto credo uno degli ultimi programmi dove c'era la possibilità di ballare, quando la televisione era ancora diversa, che era Caramba, sì. Con Raffaella Carrà, e già lì i minuti erano pochissimi, avevi un minuto per poterti esprimere e poi basta, si doveva parlare, si doveva fare ecco altro. Quindi questo dici che non aiuta a divulgare la danza, ovviamente? No, secondo me assolutamente no. Senti, da coreografo gli italiani come se la cavano? Come? Da coreografo, visto che tu lo sei, gli italiani come se la cavano sul palcoscenico? In palcoscenico sì, molto sì. Bene, direi. Bene. Molto bene, sì, sì. Infatti ci sono molti danzatori che vanno all'estero e che vorrei che tornassero in Italia. Perché vanno all'estero? Provano... Perché sono più possibilità, ovvio. Sì, al momento sì, però non è detto, ecco, speriamo, lavoriamo, restiamo qua per far sì che tornino e che lavorino e che trovino le... le possibilità, ecco. Gli italiani, come invece il pubblico italiano, come è cambiato? Partecipa ancora, è pronto a vedere cose nuove, è ancorato al passato? Devo dire che la nostra compagnia, che è una compagnia d'autore, quindi anche con programmi abbastanza difficili, sì. Faccio l'esempio: l'altro giorno eravamo a Lugo di Romagna in un bellissimo teatro che è il Teatro Rossini, abbiamo portato Le Vergini, che è un programma abbastanza tosto, il teatro era pieno, il pubblico ha applaudito tantissimo, erano contentissimi di vedere proprio bei ballerini, danza, con anche una sua poetica, quindi credo che ci sia, ecco, un pubblico, solo bisogna andarlo a scovare. Confido poco, diciamo, nelle idee che ci sono magari a volte in alcuni organizzatori, ecco, bisognerebbe usare un po' di più. Avete un ospite già di quelli un pochino più all'avanguardia. Meno male, meno male. Grazie Matteo Levaggi, buon lavoro, buona domenica, ciao, grazie. Rino, quando sì. Tu fai le tue scelte, quanto vedi, quanto guardi, giri o usi ad esempio la rete per guardare, o ti mandano, non so, i DVD con... Dunque, diciamo che se possibile... preferisco vedere le cose dal vivo. Questo, l'emozione del vivo è sì, un'altra cosa. Dopodiché questo non è sempre fattibile, non solo per questioni di tempo, ma anche per questioni economiche. Naturalmente sì. Il discorso che si faceva prima con Matteo è un discorso molto complesso, no? Quello per esempio degli italiani che vanno a lavorare sì. fuori, perché è legato purtroppo a un discorso di... Alla proposta. A un discorso di sovvenzioni sì. che parte proprio da questioni che riguardano il governo centrale. Che ecco, interviene, senti, sulla senza... cultura, scusa, se mi interrompo, sì. ma senza sovvenzioni sarebbe impossibile andare avanti. Certo. Sì. Sì, sì. È già difficile così, con le sovvenzioni che sono sempre più ridotte. Sì. E quindi... Ma sai, bisognerebbe, forse ci vorrebbero tantissimi anni perché il sistema cambiasse e si adattasse a una nuova logica. Probabilmente si riuscirebbe a sopravvivere, però perché? È che nei momenti di crisi la cultura dello spettacolo viene sempre tagliata. Esatto, sì. Questo sì. Forse è è un problema. Sì, diciamo che rispetto all'ultimo tentativo di taglio che è stato fatto, ci siamo salvati perché quei tagli che erano stati previsti sì. sono rientrati, però chissà cosa ci è aspetta. È sempre un punto di domanda. Siamo sempre in un momento molto difficile. Volevamo molto sentire difficile. Anche la vostra opinione, se volete scrivere, c'è la pagina di Facebook, Il Riposo del Guerriero, oppure i messaggi al 349-238-6666. Continueremo a parlare di corpo dopo la pubblicità. Il Riposo del Guerriero. Parliamo del linguaggio del corpo con Rino De Paci. Ancora stavamo parlando, Rino, delle scelte, ecco, che vengono fatte, e il pubblico se le capisce poi queste scelte. Diciamo che lì bisogna studiare degli equilibri pazzeschi, perché intanto restare fedeli alla storia e alla linea del festival, no? Che sì. è appunto quella di è nata con l'idea di presentare quello che è oltre. Il clima è cambiato, naturalmente. Oggi abbiamo trasgredito ormai tutte le possibili trasgressioni, e quindi di oltre è rimasto poco. Per cui diciamo che cerchiamo di attestarci sulla qualità sì. dei progetti artistici. Nello stesso tempo ci preoccupiamo molto dei gusti del pubblico. E da questo punto di vista... Ecco, che gusti ha il pubblico? Se possiamo generalizzare, non è facile, però... Non è facile, però... non lo freghi il pubblico, perché sì. comunque riconosce l'onestà e la qualità di una, sì. di una proposta, quindi non si fa prendere in giro. Quindi c'è un pubblico intelligente. C'è un pubblico intelligente critico, che può anche dire: non mi è piaciuto, ma sono stati molto bravi. Esattamente. Questo è il senso. Sì. E soprattutto, sai, seguendo un festival e non delle cose che vengono proposte qui e là nel corso della stagione, seguendo un festival, sa già che in quel contenitore probabilmente vedrà una tipologia di progetti artistici, no? Magari diversi tra loro, però tutti quanti accomunati o da una linea, non lo so, che li accomuni dal punto di vista del linguaggio, per esempio, o perché si vuole stupire, o perché magari in un determinato anno, in una determinata edizione, si decide di seguire un tema. Quindi diciamo che si tende a proteggere tanto gli spettacoli che si propongono quanto il pubblico che viene a vederli, cercando di fungere anche da come dire, da un contenitore di documentazione. È lo sforzo che stiamo facendo soprattutto in questi ultimi anni per far conoscere, sì, per avvicinarci alle nuove generazioni, ecco, soprattutto. Ecco, però le nuove generazioni, appunto, come che vedono internet, la televisione e tanti anche serie, tante serie televisive dove la danza fa parte, insomma, Glee, faccio un esempio, Glee, poi c'è Smash, mi dicevi come si intitola l'altra, sì, nuova, è ecco, l'altro, sì, l'altro musical che non ho, su, che non ho su Marilyn Monroe. Ecco, e il fatto è che quello è il riferimento, no? Poi sì, cosa trovano? Punto di domanda. Bisogna andargli incontro in qualche modo, se no gli si delude un certo tipo di pubblico. Beh, diciamo che se i riferimenti fossero quelli che abbiamo citato, saremmo già al top. Ah, dici? Beh, scherzi, cioè una qualità incredibile, il livello è altissimo. Tu guardi Smash e rimani allibito a vedere questi attori, attrici, danzatori, danzatrici, non so neanche come definirli, perché loro fanno, beh, di tutto, cantano, ballano, recitano. Abbiamo fatto una puntata sul musical due settimane fa e vabbè, lì l'arte in sé, le tre arti sono comprese, la recitazione, il canto e la danza, non c'è, certo, niente da fare. Per cui gli americani sappiamo che in questo sono molto preparati, hanno ottime scuole, ma poi già nelle scuole più di livello più basso cominciano a frequentare i corsi e quindi sono più preparati. Però noi insomma ce la caviamo anche bene, sì, abbiamo sentito anche prima. Matteo, certo, Matteo. E diciamo che il discorso appunto è complesso, perché lì c'è un discorso legato alla formazione che non è sufficientemente di qualità, nel senso che magari in Italia ci sono pochissimi centri di eccellenza e poi però rimane un territorio nazionale praticamente sguarnito, ed è la ragione per cui molti danzatori vanno all'estero come e cervelli, hanno un successo pazzesco, come i cervelli, perché poi lavorano con delle compagnie, sì, di altissimo livello. Diventano coreografi, magari qualcuno riesce a ritornare in Italia, ma molti invece rimangono la loro sono. Carriera la sviluppano completamente all'estero. Dopodiché, tornando al discorso delle trasmissioni, sì, abbiamo delle trasmissioni anche in Italia, probabilmente non sono dello stesso livello di quelle che citavamo prima, però diciamo che un pochino servono, perché perlomeno informano il grande pubblico che esiste una disciplina che si chiama danza contemporanea. Perché è quello che poi bisogna fare, esatto, no? Informare il grande pubblico che è rimasto al balletto ancora, molti sono rimasti lì. Andrea Viganò, ciao, buona domenica, ciao Andrea. Ciao Stefano, buongiorno. Andrea Viganò è il pistillo di Colorado, l'avrete visto col suo bastone, ma non soltanto. Andrea, in realtà è molto di più di quello, come sempre la televisione limita da questo punto di vista, no? Andrea ti propone una cosa, ti stigmatizza in quello e non c'è altro per il pubblico, vero? Ma allora diciamo, vabbè, più o meno bisogna un attimino esplodere in pochi minuti, insomma, e dimostrare un po' quello che sei capace di fare, ma per adesso sono sufficienti, sembrano 3 minuti velocissimi ma sono infiniti allo stesso tempo. Ecco, bisogna dire, questa è una cosa che dico sempre, ci sono artisti anche che nascono in televisione, non è il tuo caso, e che poi però si fermano lì, quando poi li vedete in scena non reggono che 5 minuti, perché poi non c'hanno più niente da dire. Ci sono artisti invece che lì vengono usati 3 minuti ma che poi reggono 1.5 ore, come Andrea. No, ma è vero. Allora, la tua formazione è curiosa, perché anche tu nasci dal dietro le quinte, un po' come Rino, nel senso che tu facevi lo scenografo. Esatto, esattamente. Sì. Io sì, ero scenografo, mi occupavo un po' di allestimenti a livello teatrale, ho lavorato in fiera, ho lavorato per eventi, insomma, locali, insomma, in diverse situazioni. Inizialmente anche nei villaggi turistici, dove poi è un po' partita, dove è partito il pallino di ecco, stare sul palco. Esatto, a un certo punto hai capito che il corpo poteva parlare anche senza dire delle cose, no? Sì, fantastico, sì, sì. E questo... dunque, il discorso del linguaggio del corpo, insomma, ho cercato di mettere un po' insieme negli anni diverse discipline, studiando, vabbè, mimo, giocoleria, acrobatica, poi la decisione, insomma, vabbè, naturalmente non in tutte le situazioni di spettacolo, però soprattutto magari sui live, anzi parlo, perché forse mi sfogo e con le persone parlo, ma uso naturalmente tanto il corpo, come poi faccio anche a Colorado, insomma, e nei miei spettacoli. E, l'idea di utilizzare il corpo è legato naturalmente alla musica, quindi questo linguaggio visuale che negli ultimi anni soprattutto sta andando molto bene. In Italia ci stiamo arrivando anche noi piano piano, insomma, a questo tipo di comunicazione, a questo tipo di spettacolo, e a me, vabbè, naturalmente piace da morire, perché comunque ti spinge a dover muoverti, a dover comunicare senza l'uso della parola, quindi il linguaggio verbale. Anche perché la musica e il corpo ovviamente non hanno frontiere, no? Al di là della lingua, che invece può non essere compresa, e invece il corpo e musica sono comprese universalmente, quindi questa è la grande forza. Sì. Andrea, rispetto anche alla qualità di questo, tu non sei un danzatore e quindi è il corpo che si muove in un modo completamente diverso, si muove per raccontare delle cose, si muove in modo mimico, quindi esagerando dei gesti, cercando di far capire alle persone cosa succede, ma senza usare il linguaggio della danza. No? E tu che qualità trovi in Italia da questo punto di vista? Perché poi moltissimi, per esempio, nascono in strada, cioè questa forma d'arte è quella che si vede nelle strade, meno nelle strade italiane, in più forse nelle strade di grandi città europee. Però tu che giri, che vedi, sta cambiando anche in Italia, oppure la qualità è sempre quella, un po', diciamo così, a volte un po' buttata lì, ecco, senza, allora, voglio dire, mediocre, senza, però. Sì, ma intanto devo dire che vabbè, anch'io ho partecipato a numerosi festival di strada, sia in Italia che all'estero. È una cosa bellissima, nel senso che io consiglio naturalmente a tutti di andare ai festival. Anche in Italia ce ne sono davvero di molto belli, e sono tanti, soprattutto durante l'estate. Nei festival di strada io ho incontrato e conosciuto tantissimi amici davvero molto bravi, davvero dei grandi artisti che propongono degli spettacoli, propongono un linguaggio naturale, anche internazionale, perché utilizzando magari il corpo e comunque delle forme d'arte come sto facendo io. In Italia sì, c'è questa cosa, la vediamo più all'estero, è verissimo, tipo in Francia o in Spagna, anche in Germania, in tantissime città, dove vediamo Londra per esempio, insomma, tanti artisti di strada che si esibiscono. In Italia c'è questa cosa, sarebbe bello spingerla un pochino di più, perché forse è vista in maniera leggermente diversa diciamo dal pubblico, c'è ancora visto, dal popolo. Sì, non, è ancora, non c'è ancora la consapevolezza che chi si esibisce in strada in realtà è un artista vero e proprio, fatto e finito, semplicemente è il palcoscenico che cambia, è l'asfalto e non è invece il legno con il sipario. Per finire, Andrea, anche in questo mondo, quello della mimica, del mimo, dell'artista da strada, ci sono tante fughe di cervelli, di corpi, in questo caso, come diceva Rino, tanti danzatori ottimi italiani che se ne vanno all'estero perché c'è più possibilità? Sì, purtroppo sì, nel senso, l'estero offre un po' di più, però probabilmente è anche una prova, nel senso, a me ogni tanto vado all'estero, l'obiettivo sarebbe quello comunque di girare naturalmente il mondo per portare un po' le tue capacità, insomma, e il tuo linguaggio, proprio perché è universale. Io cerco di lavorare soprattutto sul palco magari di Colorado, comunque in tutte le altre situazioni, sempre a livello internazionale, perché gli stranieri o comunque magari ti guardano e dicono vabbè, cosa sta facendo, però in questo modo, insomma, capiscono. E secondo me è bello comunicare in questa maniera, e naturalmente, ecco, quindi tu dici si va all'estero perché si sperimenta anche la vera capacità di comunicare con un linguaggio appunto compreso da tutti, e riuscirlo a fare anche oltre confine. Grazie Andrea Viganò, grazie, ciao, grazie Pistillo, ciao, buona domenica. Domenica, ciao a tutti voi, grazie, ciao. Perché qui c'è sempre il nome d'arte, e secondo te l'arte da strada, Rino, aiuta ad avvicinare poi alla danza contemporanea? Il pubblico, parlo di questo. Sì, diciamo che sono delle cose, delle forme di espressione diverse, però... Ma c'è commistione, per esempio, nelle rappresentazioni che tu hai visto, che magari hai anche scelto nel festival? Beh, dove diciamo, ci sono degli artisti, ci sono dei coreografi o dei danzatori, sì, che molto volentieri si esibiscono. Diciamo che è una... una delle branche della danza, sì, che si chiama danza urbana, ecco, vedi, che prevede proprio delle esibizioni coreografiche in spazi, non lo so, possono essere... Che non sono i palcoscenici. Esatto, ecco, possono essere i centri alla periferia della città, certo, può piazza, essere una piazza, un viale, centrale, una strada. Beh, c'è tutto il fenomeno dell'hip hop e della break dance, per esempio, degli anni passati, no? Di questi giovanissimi che... ecco, che fine ha fatto tutto quello? Non lo so, non lo so. Nel senso che esiste ancora l'hip hop, sì, naturalmente, certo, però esiste soprattutto un livello professionistico, quindi io non vedo grandi manifestazioni spontanee all'aperto, come invece, città, veniva, come invece si, sì, si vedeva prima. Però ci sono delle grosse compagnie di hip hop molto interessanti che fanno dei virtuosismi incredibili, ci sono, ma è scomparsa invece quella forma libera di espressione che credo che sia stata a cavallo tra gli anni 80 e la fine degli anni 90, no? Più o meno, sì. Si vedeva di più e adesso si vede un po' meno. Qualcuno c'è ancora che è rimasto lì, però c'è il traffico, nel senso, speriamo che non ci sia, ma gli aggiornamenti arrivano adesso. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando del corpo in movimento, il corpo che comunica sicuramente, e a parte la forma artistica, poi c'è anche una forma quotidiana, che di artistico può anche non avere assolutamente nulla, però esiste, perché il nostro corpo comunica sempre, certo, anche quando non ce ne accorgiamo. Francesco Di Fanta, ciao, buona domenica. Buona domenica a voi, buona domenica a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Allora, Francesco è autore di un libro che è 101 cose da sapere sul linguaggio segreto del corpo, che così segreto non è dopo che hai studiato 101 cose da sapere. Beh, certamente, perché 101 sono, diciamo, un po' ecco, la summa dei consigli più pratici, poi ovviamente a monte c'è uno studio, ecco, ben più vasto, giustamente. Senti, il corpo comunica appunto anche quando non danza, ma anzi comunica proprio in quel momento, visto che è libero di fare quello che vuole, e si parla molto di linguaggio non verbale, appunto, di tutto quello che il corpo comunica quando si parla, e nel frattempo ci si comporta in modo apparentemente diverso rispetto a quello che si dice. Come si fa a riconoscere quando c'è questa discrepanza fra le due cose? O c'è sempre? Beh, no, non c'è sempre, nel senso, quando una persona dice la verità, quando è appassionata in quello che dice, quando ci crede, spesso il corpo concorda con le proprie parole, quindi molto spesso le forme di comunicazione più efficaci sono quelle concordanti. A volte però è vero che c'è una comunicazione involontaria, quindi che non riusciamo a tenere sotto controllo tutti i segnali, e spesso ne riusciamo a mantenere sotto la briglia, ecco, imbrigliati una parte, ma altri più involontari, anche più automatici, non possono o non vengono appunto controllati. Per esempio, un segnale incontrollabile è quello delle pupille, quando si dilatano o quando si restringono. Quella è una cosa che va al di là del controllo della persona. Questa è una cosa molto interessante, perché vedere una persona con la pupilla dilatata indica che sta provando piacere, sta provando attrazione verso di noi o verso qualcosa, mentre invece se la pupilla si restringe, ai noi è il contrario. Ecco, questo al di là della luce, scusami se ti interrompo, Francesco, questo al di là della luce, perché poi la luce crea una fonte di luce, si fa stringere la pupilla, ecco, cioè succede che la pupilla si muove anche ovviamente nelle stesse condizioni di illuminazione, è questo, no? Certo, no, bisogna appunto vedere che l'illuminazione magari non cambi quando, certo, c'è questa modificazione. Sì. L'analisi del contesto è sempre molto importante, così come una persona che parla con noi guarda di lato, magari se entra una persona in un locale è per quello, non è perché non ci sta ascoltando, magari, per esempio, giustamente. Chiaro, ecco. Hai toccato un punto interessante, cioè quello del fatto che ci sono gesti involontari che però non stanno rappresentando il linguaggio segreto del corpo, cioè quello che non vuoi dire. Certo, sono un sigaro è solo un sigaro, diceva Freud. Esatto, cioè tu dici, uno guarda da un'altra parte non perché non è attento a te, ma appunto perché è successa una cosa di lato e quindi istintivamente il tuo sguardo come il grattarsi il naso, a volte prude veramente, non vuol dire per forza. Certo, cosa vuol dire quando ti gratti il naso? Quando ti gratti il naso può voler dire, diciamo che è uno dei segnali principali di menzogna, perché proprio nel naso, e al di là quando ecco, lo si gratta vistosamente perché c'è un prurito, nel naso vengono prodotte delle catecolamine, che sono delle sostanze che irritano i tessuti interni quando si mente. Quindi quando una persona dice delle bugie, il corpo secerne una sostanza che ci fa prudere il naso. Ah, ma è fisico proprio? Nasce da una, questa non la sapevo, pensavo che da fosse una modificazione del nostro organismo, proprio esattamente, che mette in circolo questa sostanza. Allo stesso modo altre cose incontrollabili sono le microespressioni, che il californiano Paul Ekman, padre insomma delle microespressioni, ci insegna, perché sono dei momenti che durano una frazione di secondo in cui si dipinge un'espressione sul nostro volto che sfugge al nostro controllo. Quindi se magari diciamo una menzogna sforzandoci di essere seri, ma proviamo il piacere della beffa, potrebbe sfuggirci per un istante magari un sorrisetto. Queste sono le microespressioni, anche queste sono involontarie. E quindi sono, insomma, bisogna saperle cogliere. Senti, è immancabile quando si parla del linguaggio segreto del corpo, forse perché c'è la parola segreto, viene sempre in mente questo aspetto, cioè quello della falsità, no? Della menzogna. Sì. Però c'è anche l'opposto. Cioè, mi piacerebbe anche capire quali sono i segnali che ci fanno intuire che chi abbiamo di fronte sia sincero. Beh, sì, sono interessanti anche questi. Per esempio una persona che mantiene il contatto visivo quando ci parla, che gesticola in maniera anche piuttosto evidente, è probabile che ti stia dicendo la verità, perché è coinvolta nel discorso e sta usando appunto i gesti illustratori. Il gesticolare di solito indica che la persona appunto sta concordando, ecco, col proprio linguaggio del corpo, con le proprie parole. Quindi quando uno mente tendenzialmente ha un linguaggio gestuale molto più limitato o assente? Sì, più limitato, tiene le mani più ferme, addirittura tende a toccarsi, a usare gesti manipolatori per scaricare la tensione. Quindi ci sono appunto altri gesti, una classe gesti che invece indica che qualcosa non va, che il soggetto sta provando tensione. Però molto spesso il linguaggio del corpo può essere usato appunto in maniera positiva nel gioco della seduzione. Eccolo lì, il toccarsi i capelli per esempio, lo stava facendo adesso la nostra Nadia Zammitti, che si stava toccando i capelli apposta per fare uno dei gesti che spesso le donne fanno, ma perché hanno i capelli lunghi, gli uomini un po' meno. Rino, tu sì, non riusciresti no. ma cosa di, cioè, è un bel gesto, cioè, vuol dire che piacciamo oppure vuol dire che vattene via, io sono con me stessa, lei dice, con i miei capelli, come funziona? No, di solito diciamo un gesto con i capelli che indica quel tipo di rifiuto è quando li si lega. Quando si legano i capelli, in qualche modo si riduce la carica sessuale che si vuole comunicare. Pensate un po', invece quando si slegano o quando si lanciano, quando si passa la mano nei capelli proprio a gonfiarli, a lanciarli anche nell'aria, lì è proprio un po' il pavone che fa la ruota, quindi è un gesto che vuole segnalare la propria presenza all'altro. Adesso ho capito la scelta di alcune pubblicità di shampoo quando si muovono con questi capelli. Senti, Francesco, quando la gente parla con te si controlla perché sa che tu la stai controllando? Beh, diciamo che chi mi conosce, chi conosce il mio lavoro, sicuramente può avere questo tipo di tensione aggiunta. Io di solito evito di dirlo almeno in prima battuta, così almeno mi godo i primi minuti di relazione normale. Ecco. Bisogna saperlo anche fare, però, diciamolo, cioè interpretare il linguaggio segreto bisogna saperlo fare, perché spesso così si prendono delle cantonate, no? Nel senso che si interpretano come gesti di un certo tipo cose che invece non hanno niente a che fare con quello, credo che sia così. È vero, perché innanzitutto bisogna controllare un po' tutti i segnali che il corpo produce, non solo quello che stiamo osservando magari o quello che ci balza all'occhio, e poi anche il contesto della persona, dove è calata la situazione, non solo, ma ci sono anche delle vere e proprie trappole cognitive che lo scopritore di bugie in qualche modo o l'analista del linguaggio del corpo deve tenere in considerazione. Ci sono per esempio c'è l'effetto Otello, l'effetto Pigmalione, l'effetto Brokaw, per dirne tre, che sono tutti effetti psicologici che falsano la percezione. Hai un minuto per raccontarmi l'effetto Otello, perché così mi viene in mente la gelosia. Cos'è l'effetto Otello? Forse è più semplice, quello in cui si scambia la paura di non essere creduti con la paura di raccontare una menzogna. Classico proprio. Ah, ecco, per cui tu pensi che la persona che sta parlando con te stia mentendo, invece semplicemente è la persona che crede di non essere capita, creduta, e quindi ha l'atteggiamento paura, del mentitore. Sì. Ah, beh, sì, questo sì, è interessante. Viene interpretata in maniera diversa, con effetti disastrosi, come la povera Desdemona, insomma, sappiamo che è successo. Beh, chiaro. Beh, questo comunque è molto interessante, bello, sì, perché è proprio un ecco perché dicevo, bisogna saperlo interpretare il linguaggio del corpo. Troppo facile semplicemente segnarsi i segnali, scusate il gioco di parole, e dire ah tu stai mentendo, perché non è vero. E ecco, l'altro quello è l'effetto Brokaw, ovvero sì, vedere qualcosa che non va e assolutizzarla. Certo, è interessante anche perché ci fa capire quanto non sia affatto semplice. Certo, bisogna avere una grande esperienza, una grande sensibilità per l'analisi, e tanta osservazione ovviamente, ore di volo diciamo. Questo come tutto il resto ovviamente. Francesco Olifante, sì, io ti ringrazio molto, vi ricordo il libro, è 101 cose da sapere sul linguaggio segreto del corpo, edito come sempre da Newton Compton, che ha questa linea delle 101 cose. Grazie Francesco, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Rino, tu osservi molto il linguaggio del corpo quando parli con le persone o no? Beh, diciamo che sì, lo fai. Guardo spesso anche dritto negli occhi e mi piace capire, insomma, cerchi il contatto davanti. Visivo, sì, insomma, sì, sì, sì. Ma è anche perché è giusto, perché è l'unico sì, modo per potersi comprendere. C'è il GR, tra pochissimo poi continuiamo a parlare del corpo in movimento nel riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Alle 11:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, riposo del guerriero su Radio 24, dove parlare del corpo che cambia, che comunica, il corpo che cambia era una canzone che abbiamo sentito all'inizio della puntata, e c'è Grazia per esempio che dice: nell'ambito della danza trovo interessante la danza etnica perché sa raccontare la storia di un luogo, di un popolo e vissuto di ogni giorno. Rino De Pace, la danza etnica come entra nella danza contemporanea? Entra con il suo linguaggio tradizionale, con la storia che la lega al territorio in cui nasce, e entra in alcuni festival tematici che si occupano specificamente di danza etnica, oppure può essere ospitata normalmente nelle stagioni. Abbiamo avuto dei casi di danza etnica particolarmente significativi nella storia di Milano Oltre, dunque Costa d'Avorio, Burkina Faso se non sbaglio, parlo di qualche anno fa, un gruppo che aveva costruito uno spettacolo basato su delle poesie scritte da poeti locali, sì, che erano state messe in musica e coreografate allo stesso tempo. Emozionante? Sì, naturalmente. No, lo chiedo perché dovete vedere la faccia di Rino quando parla, perché è proprio trasognato, cioè sta cercando con gli occhi, no, di recuperare quelle emozioni. A proposito di emozione, ho visto The Artist, se non l'avete visto fatelo, perché è un film ovviamente che per un'ora e mezza non parla, è un film esclusivamente legato al corpo, alla mimica, sì, alla musica, e credo che racconti molto bene il corpo che comunica, certo. Ecco, è un film straordinario, vedetelo, secondo me l'Oscar se l'è meritato, poi altri magari non saranno d'accordo con me, ma io sono d'accordo con me stesso in questo momento, penso che sia così. Stefano Locascio, buona domenica Stefano. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, allora parliamo di capoeira. Sì, sì. Che è una danza, ma non è proprio, è un insieme di cose la capoeira, perché è una lotta danzata, come funziona, come nasce? Esattamente, sì, esattamente. Sarebbe un errore definirla solamente danza, nel senso che in effetti è un'arte marziale che si basa moltissimo sull'espressione corporale, ed è un'arte marziale che si fa a ritmo di musica, per cui il fraintendimento viene proprio da questo, nel senso che anche il passo base della capoeira, che si chiama Jinga, è questo dondolio che pare una danza, che però in realtà viene da una ragione storica, ovvero che ovviamente è un'arte brasiliana che viene dai tempi della schiavitù, e tra l'altro il Brasile è stato l'ultimo paese al mondo ad abolire la schiavitù, per cui questi schiavi che si allenavano a una lotta, ovviamente ai padroni non stava niente bene. E quindi loro, come poi moltissime delle espressioni culturali afro-brasiliane, sono riusciti a mantenerla in vita proprio occultandola con una danza. Questo è molto interessante. Ecco Stefano, c'è molta, visto che tu insegni, no? Hai arte danza e capoeira a Milano, artedanzacapoeira.com è il tuo sito, e c'è molta richiesta e le età delle persone che la frequentano, e sei molto maschile, per esempio. Io la capoeira ce l'ho come arte esclusivamente maschile, in testa e nel mio immaginario. Dunque, sì, le età sono le più disparate, nel senso che noi li facciamo dai bambini fino agli adulti. Adulti, diciamo. Adulti, sì, anche con gente di 40 anni. Sì. Noi abbiamo gente che ha iniziato a fare capoeira con 50 anni, sì. Per cui davvero sì. Il corpo si può muovere a qualunque età. A qualunque età, sì. esattamente. Il sesso, il genere? Il genere, no, non è vero, nel senso che molti, le semovenze della capoeira in quanto lotta, no? Sì. Spesso sono più maschili, sì. Però di fatto i praticanti di questa disciplina direi che sono esattamente al 50%. Ah, cioè, quindi c'è interesse anche da parte di un pubblico femminile? No, io penso che sia più interesse da parte, almeno qui. Almeno qua, ecco, forse in Brasile è un po' diverso, ovviamente. Ecco. In Brasile è un po' diverso, ma anche perché la mentalità è ben diversa. Ecco, poi voi avrete, ovviamente, poi farete il saggio di fine anno, no? Anche voi come scuola, o non fate queste cose? Sì, lo facciamo. In realtà la capoeira è una, in se stessa è una performance, per cui in realtà quando noi facciamo il saggio finale lo facciamo attraverso, perché una delle cose molto belle che rappresenta il capoeirista come personaggio è che non è solamente capoeirista, o meglio, lui è capoeirista ma è anche percussionista, ballerino, e ci sono parecchie espressioni folkloriche brasiliane che vengono fatte esclusivamente dai capoeiristi, come il maculelé, come la puxada di rede, come molte espressioni. Il maculelé, per esempio, è una lotta che si fa con i bastoni. Sì. No, sempre simulata. Quindi tu dici che comunque è sempre bella da vedere, al di là di tutto, anche quando c'è la lezione. La roba di capoeira già è una performance in se stessa. Esatto, quindi non è neanche stato fare un saggio, ma basta vedere una delle lezioni, va bene. Esattamente. Stefano Locascio, ti ringrazio, artedanzacapoeira.com è il sito, e insomma, buon insegnamento. Io consiglio di visitare anche il sito poi dell'associazione che rappresento in arte danza, sì. Che è l'associazione Capoeira d'Angola, che è del maestro Bascino, che è stato il primo maestro a portare questa disciplina in Italia, e che ha la scuola attiva qua a Milano, in zona Isola, e il sito è capoeiramilano.com. Grazie Stefano Locascio, buona domenica. Grazie a voi, arrivederci. C'è qualcosa di molto maschile, almeno nell'immaginario, c'è qualcosa di molto femminile, Carlotta Cannata, ciao, buona domenica. Eccomi, infatti non vedevo l'ora di parlare delle donne. Certo, allora intanto Carlotta nasci come, abbiamo parlato di danza tutto il giorno, tu hai cominciato la danza classica. Eh sì, a 4 anni fino ai 12 solo ed esclusivamente danza classica. Poi invece hai scoperto che c'è anche la danza contemporanea. Eh sì, per mia fortuna, anche perché come avete già egregiamente discusso, la danza classica ha dei canoni molto molto vincolanti, che se non hai non puoi intraprendere la carriera professionista del ballerino classico, quindi anche per questo, quindi per una piccola delusione, a 11 anni ho iniziato a incontrare la danza moderna, contemporanea, e poi da lì il canto e la recitazione che mi ha portato a fare la mia principale carriera nel musical. Esatto, che insomma abbiamo fatto poi una puntata due domeniche fa proprio su questo. E poi a un certo punto hai scoperto che la tua capacità anche di insegnare e di rappresentare te stessa sul palcoscenico e i personaggi che hai interpretato può essere così contenuta in una forma d'arte che ha avuto grande successo e che però bisogna anche capire, perché è una forma d'arte ancora discussa, ma perché ognuno un po' la fa a suo modo, che è il burlesque. Esattamente, proprio ascoltando la puntata di oggi ho riflettuto molto, perché è stata, credo sia stata proprio l'esigenza del mio corpo di poter comunicare attraverso appunto i movimenti del corpo e le varie scelte che si fanno poi nella messa in scena di una performance, che mi ha fatto così innamorare del burlesque, perché nel burlesque, io dico sempre, si parla molto anche se non si usa la voce. Sì, è una forma di mimo anche quella, no? In questo senso. Bisogna raccontare una storia semplicemente con il corpo. E il burlesque però ha la forza in sé di rappresentare il mondo femminile e la seduzione che lo coinvolge. Sì, è assolutamente l'apoteosi della femminilità e della seduzione. Ma spesso l'errore che si fa è quello di limitare il termine seduzione alla seduzione verso l'uomo, verso l'altra persona che vogliamo sedurre per avere una relazione o comunque per avere... E invece non è così, bisogna andare un pochino indietro e usare la parola sedurre proprio come... letteralmente significa, cioè attrarre a sé, condurre a sé, può essere qualunque cosa. Il pubblico va costantemente sedotto da parte di un qualunque tipo di artista, no? È certo. Una seduzione, e ovviamente la donna usa le sue armi, che sono quelle della sensualità sicuramente, ma una cosa che non deve mancare mai nel burlesque è l'ironia, che anche qui è una parola un po' inflazionata, ma è un po' difficile essere veramente ironiche, perché bisogna, soprattutto per una donna magari piacente, è ancora più difficile. Sì. Paradossalmente il burlesque viene meglio a chi è bruttina, no? Tra virgolette. Sì, perché... infatti il burlesque non limita assolutamente, non ha nessun tipo di canone né fisico, né di età, né di peso, né di taglia, ecco. Ecco, tu che insegni, ci sono tante donne anche di una certa età e non particolarmente avvenenti che invece vengono a imparare il linguaggio della seduzione del burlesque. Assolutamente, anzi ti dirò di più, nei miei corsi io non ho donne, o comunque ne ho veramente poche al di sotto dei 30-35 anni, perché comunque la donna ancora sotto i 30 anni si deve ancora scoprire. E soprattutto deve ancora capire che non è solo l'aspetto estetico che può fare, che può renderti seduttiva appunto anche sul lavoro, perché oggigiorno, no, si è molto attenti anche nel mondo del lavoro, sì, a essere certo. Molto attraenti e provocanti, e quindi arrivati a una certa età le donne sentono la necessità di dire: ma ci sarà qualcosa in più dentro di me che vale? E quindi attraverso i corsi non si fa ovviamente solo lo striptease burlesque, che quella è proprio una piccolissima parte del mondo burlesque, ma si lavora soprattutto sulla personalità delle donne e sul linguaggio del corpo, che è poi l'argomento della puntata di oggi. Grazie Carlotta Cannata. Posso come fare no una domanda, certo, Carlotta. Sì, volevo chiederle Carlotta, sì, certo. La formazione di balletto le è servita? Ecco, allora fermiamoci un attimo. Sì. Quanto ti è servita la formazione di balletto? Gli aggiornamenti sul traffico, sono un attimo in ritardo, e poi la risposta di Carlotta. Il riposo del guerriero. Ecco Carlotta, velocemente la tua risposta, perché stiamo sforando di tanto, però è interessante, dimmi. È stata fondamentale la mia formazione classica, e tutta la mia formazione, perché comunque ha reso una donna più ricca di contenuti che adesso posso sfruttare a mio piacimento. La formazione classica è stata assolutamente la parte che ha aiutato il mio portamento e la mia delicatezza nell'uso del corpo. Quindi indispensabile. Assolutamente. Beh, indispensabile. Anche perché poi Carlotta è alta, e quindi e questo è stato forse il problema che a 11 anni ti ha fatto scartare dalla possibilità di fare la danzatrice classica. Grazie Carlotta, buona domenica. Grazie a voi. Grazie. Ciao, grazie. Rino, per chiudere, insomma, sì, lo vogliamo parlare del festival che sarà a Milano, questa terza, sì, tranche. Abbiamo questo terzo appuntamento, quest'anno Milano Oltre è diviso in tre parti, quindi da martedì 27 a domenica 2 dicembre, un profilo dedicato a Cesc Gelabert e Lidia Zopardi, compagnia de danza di Barcellona. Cesc Gelabert è un grande della danza contemporanea spagnola, ha un'età importante, ma è ancora lì sul palcoscenico, pronto a sfidarsi e a raccontare di sé. Stiamo seguendo questa nuova linea di Milano Oltre, partita nel 2010, che dedica dei profili a dei personaggi del mondo della danza contemporanea che hanno acquisito un certo patrimonio coreografico a beneficio appunto del nuovo pubblico, delle nuove generazioni, quindi proponendo di ciascuno di loro magari l'ultimo spettacolo, ma anche quello di 5 anni fa, anche quello di 20 anni fa, certo, quando è possibile. Presenteremo 4 programmi diversi, si comincerà con Belmonte, spettacolo meraviglioso dedicato al mondo della corrida. Sì. E proseguiremo con l'ultimo solo di Gelabert giovedì sera e chiuderemo il weekend, venerdì, sabato e domenica, invece con un programma doppio di danza ricchissima, molto coreograficamente molto molto ricca. Insieme a Gelabert avremo 2 italiani particolarmente interessanti: Giulio Danna, che porta sul palcoscenico il suo papà affetto da morbo di Parkinson, e Giuliana Anzillotti con uno spettacolo dedicato al mito degli angeli. Grazie Rino De Pace anche per portare la danza contemporanea in Italia, a farcela conoscere. Vi dico il sito che è milanoltre.org e a questo punto verremo al teatro sicuramente. E adesso velocemente subito la nostra Francesca Dragotto, che ha analizzato il modo di comunicare dei 5 candidati per le primarie, e ascoltiamo che cosa ha da raccontarci. Senti chi parla. Parla la nostra Francesca Dragotto, la nostra glottologa. Buona domenica, ciao Francesca. Ciao, buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, oggi dovrei cambiare la sigla con una sorta di senti chi parla, no? Perché sì. Sentite cosa succede, perché oggi parliamo dei Fantastici 5. Chi sono i Fantastici 5, Francesca? Allora, sì, è vero, oggi sarà una puntata del tutto particolare perché analizzerà 5 personaggi pubblici, tutti accomunati dal fatto di essersi ritrovati in una stessa occasione con un medesimo scopo: sedurre un potenziale elettorato e, cosa che rende il tutto ancora più pepato, strapparlo ad altri esponenti della stessa area politica. Parliamo quindi dei 5 candidati alle primarie del Partito Democratico, accostamento che però non mi posso esimere dal commentare e che personalmente non mi appassiona, anche se è calato perfettamente nella nostra epoca. Non riesco ancora a trovare normale che per aumentare l'attenzione su un dibattito politico, in questo caso un discorso di propaganda politica, si cavalchi l'accostamento ad un fumetto. E trovo sintomatico non tanto il fatto che l'immagine della locandina modificata con i volti dei politici sia rimbalzata attraverso Facebook o attraverso Twitter, trovo semmai sintomatico che sia stata utilizzata come vetrina dallo stesso Partito Democratico nel proprio sito nazionale. Ma adesso partiamo con il primo pezzo. Se tocca a me, l'ho già detto, lo ripeto, io dirò agli italiani: non vi chiedo di piacervi, vi chiedo di credermi, perché cercherò di dire le cose come sono e tutti assieme ne usciremo. Ecco, avete riconosciuto, questa era la voce di Bersani durante il confronto andato in onda su Sky. Esattamente, 2 sono gli elementi che colpiscono particolarmente in questo pezzo, così come in tanti altri che avremmo potuto selezionare. Il primo, il se mi tocca, quasi come ci fosse una chiuca, una sorte esterna. Sì, è vero, è il giudizio dell'elettorato, però normalmente ci si aspetta un se mi scegliete, se mi votate, o tutt'al più se l'elettorato mi sceglie, mi candida. Colpisce, ecco, questo se mi tocca, perché equivale ad una spersonalizzazione totale dell'operazione di scelta. L'altro elemento che colpisce è la cosiddetta funzione espressiva o emotiva. Perché? Perché nel passaggio che abbiamo appena sentito, Bersani non fa che cercare di accomunare a se stesso, dal punto di vista emotivo, il potenziale elettore. Cercheremo delle soluzioni, faremo. Però ecco, diciamo che dal punto di vista informativo questo passaggio non ha detto nulla. Se dobbiamo invece allargare a tutto l'intervento di Bersani alla puntata, insomma, dato in onda da The Sky, anche avvalendoci dei tanti dati che i commentatori di Sky hanno prodotto nel post dibattito, allora dovremmo dire che dal punto di vista lessicale i termini che sono ricorsi maggiormente sono paese, dobbiamo, credo, lavoro, politica, oggi problema. Dico questo facendo una considerazione che però varrà anche per tutti quanti gli altri: la statistica lessicale, quindi la frequenza con cui un politico o comunque chiunque di noi utilizza un termine, sicuramente è significativa. significativa, però estrapolata dal contesto, un termine estrapolato dal contesto perde in gran parte del suo significato, perché anche cambiando minimamente il contesto, uno stesso termine attraverso un'enfatizzazione, un uso ironico può assumere un significato diverso. Per cui, ecco, io sono in disaccordo con i tanti esperti di comunicazione che a seguito di questo dibattito hanno cavalcato le liste di frequenza dei termini per dire che ad esempio Renzi e la sua comunicazione è una comunicazione del fare, lo vedremo tra poco, oppure la comunicazione di Bersani è la comunicazione rassicurante del leader, o quella di Tabacci è quella più tradizionalista. Lo possono essere, per certi versi lo sono, però non soltanto perché ricorrono o non ricorrono a certe parole, anche perché, e qui mi taccio, a volte l'assenza di una parola pesa molto di più della sua presenza. È il momento di Renzi. Chi si candida per una qualsiasi responsabilità ha l'obbligo anche di dire quello che ha già fatto. Sicuramente l'IMU, lei faceva riferimento a ciò che noi abbiamo fatto a livello locale, ma anche nel mio caso l'addizionale IRPEF. Noi le tasse a Firenze le abbiamo abbassate. Qui c'è un fare, invece, che ritorna. Uno, diciamo che il verbo fare è il verbo che ricorre, declinato in varie forme, che ricorre come parola dalla frequenza massima. Renzi trasmette sicurezza, o forse ostenta sicurezza, guarda fisso in camera o al lato della camera, in maniera del tutto opposta a quanto accade a Tabacci, che invece viene invitato a farlo da parte del moderatore stesso. È molto sciolto nell'eloquio, ricorre a slogan, a frasi ad effetto, cerca il coup de théâtre, cerca di dare voce alle attese dell'elettorato, usa spessissimo i mi piacerebbe, vorrei, quasi allontanando i termini più tecnici o comunque più politici. È interessante la prossemica, quindi l'uso dei gesti che accompagnano i passaggi più rilevanti, così come l'intonazione e un uso ben dosato di pause. Io condivido l'obiettivo della lotta contro il debito pubblico, non penso che non bisogna avere rigore, il problema è che bisogna avere un rigore non cieco, mirato. Per esempio, considero importante intervenire su tutto ciò che è la spesa corrente, la spesa che allestisce le strutture burocratiche, la pubblica amministrazione, i costi della politica. La sua S inconfondibile è Vendola. Esattamente, se dovessimo guardare soltanto alla semantica, quindi al significato più o meno concreto delle parole che utilizza, diremmo che è in totale antitesi rispetto a Renzi, perché appunto i penso, credo, ritengo abbondano, a differenza di quanto accade per l'altro candidato. Ricorre tantissimo anche la parola diritti, la parola paese, la parola lavoro, però questo vale per Vendola come vale per tutti gli altri, colpirebbe appunto la mancanza del riferimento alle conseguenze della crisi, alla mancanza di lavoro o a tanti altri temi dell'attualità politica. Di Vendola colpisce tantissimo l'uso delle metafore. Metafore che, a giudizio di molti analisti, sono ritenute complessizzanti, cioè sembrano confondere, sembrano rendere la realtà non più complessa di quello che è, sembrano lasciarla complessa così com'è, e questo fatto a molti commentatori non piace, perché, e ritorniamo al discorso della commissione dei linguaggi, a molti piace di più l'efficacia dello slogan, l'efficacia della pubblicità politica, piuttosto che invece la complessità, che non significa però difficoltà, della trasposizione in parole di quella che è una certa realtà sociale. Quindi Vendola fa sicuramente un uso notevole delle metafore, ma questo accade, il linguaggio figurato insomma caratterizza il linguaggio anche quotidiano, non per questo è un discorso politico estremamente complesso. Se vuole può guardare la telecamera. Intanto cercherei di rendermi conto che la questione dell'auto è una questione di carattere mondiale. Eccolo qua, Tabacci. È probabilmente il più tradizionalista per stile e anche comunicativo, infatti non a caso non guarda la telecamera, perché credo non ci riesca, perché credo, ho l'impressione che non domini pienamente i mezzi di comunicazione di massa, senza per questo che la sua proposta politica ne possa rimanere coinvolta. Si nota l'uso dei gesti che accompagna abbastanza sistematicamente l'eloquio, e dal punto di vista del ritmo la tendenza a spezzare attraverso il ricorso a pause abbastanza enfatizzate, appunto a spezzare l'eloquio in tre tronconi. Nel suo discorso, sempre da quel punto di vista statistico a cui facevo riferimento, spicca la presenza di molto, di problema, di penso, di può e di quindi, con un quindi che naturalmente introduce anche un'ipotesi di soluzione all'argomento problematico di cui sta di cui sta parlando. È sicuramente una comunicazione meno ad effetto, che ricorre ad una sintassi a volte un po' più articolata e che, a differenza di quella di Bersani, che comunque è un'oratoria che guarda ai modelli a questo punto dobbiamo dire un po' più del passato, se prendiamo come esempio di contemporaneità Renzi, però a differenza di Bersani la battuta da politica da bar non interviene nel suo discorso. Laura Puppato, peraltro, se non ho capito male, nel suo programma avevo visto che parlava, no, di Bill al posto del PIL, ma al di là di questo abbiamo finito il nostro giro, se non mi sbaglio, avete risposto tutti? No, io... Ah, manca la Puppato, mi scusi, perché... Scusate. L'unica donna, e alla fine quasi mancava l'appello. Sì, è una gaffe che si può leggere in tanti modi, si può pensare che l'importanza, insomma, che le è stata riservata non sia stata la stessa degli altri. Sinceramente non ritengo questo, mi è sembrato abbastanza sincero il moderatore quando ha ammesso di essersi confuso. Questo passaggio mi ha colpito ovviamente per la presenza di Bill, di questo acronimo Benessere Interno Lordo. Chiaramente si tratta di un gioco di parole che è funzionale, insomma, che dovrebbe fare la funzione dello slogan, sì, l'equivalente di uno slogan renziano, però onestamente dal punto di vista comunicativo non è altrettanto d'effetto, ma ripeto, non è detto che si debba sedurre l'elettorato ricorrendo allo slogan o ricorrendo a quelle figure retoriche di cui tanto abbonda la pubblicità. La Puppato prova ad essere brillante senza riuscire dal punto di vista comunicativo a sfondare. Ricorre a volte a fraseologie tipiche del linguaggio corrente comune, come quando dice stiamo piangendo i morti. Nel suo lessico di frequenza ricorre tantissimo, anzi è il politico che maggiormente ricorre a paese, e poi troviamo forme come dobbiamo, dire, credo, lavoro. Questo dobbiamo è interessante perché la inserisce in un orizzonte di riferimento che è comunque di tipo opposto rispetto ad altri passaggi che abbiamo considerato. Complessivamente la critica osanna Renzi, ma perché? Perché è più facile osannare chi risulta brillante nel linguaggio con cui comunica, attraverso cui comunica la propria politica, però appunto andando più a fondo ci si può chiedere se sia davvero un linguaggio della politica o non, se non sia ancora un esempio di quella commistione tra linguaggi che può risultare funzionale nell'operazione di seduzione, ma che non per questo ci deve far pensare ad una rivoluzione che poi magari ci potrà essere dal punto di vista di un eventuale programma politico, ma che non necessariamente deve passare attraverso degli escamotage comunicativi. Si è detto complessivamente di scarsa sensibilità all'uso di un linguaggio comprensibile a tutti. Francamente non ho visto particolari contorsionismi linguistici tali da far invocare l'incomprensibilità o la scarsa leggibilità uditiva dei messaggi, insomma dei discorsi proposti dai cinque candidati. E allora non vorrei che la banalizzazione passasse appunto per necessità di comprensibilità, perché si possono trattare argomenti complessi anche senza banalizzarli. A conclusione, passatemi una battuta: che vinca il migliore, d'accordo, ma che sia un uomo o che sia una donna, speriamo che sul sito del PD al momento delle elezioni nazionali non campeggi l'immagine di Superman o di Wonder Woman. Grazie Francesca Dragotto, buona domenica, grazie. Grazie a voi, a presto. Il riposo del guerriero. Crema Novi, un'autentica specialità, con il 45% di superbe nocciole delle nostre colline. Vi presenta il gastronauta. Ciao Davide, buona giornata. Buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori. Davide Paolini, dove sei a danzare? Su quale piatto? No, io sono a Milano a casa e non sto danzando. Purtroppo collegare la danza al cibo potrebbe essere solamente snellezza e leggerezza, che non fa per me sicuramente a tavola. Senti, invece io ti voglio parlare di una cosa che ho saputo, diciamo, solamente ieri, sì, ma è troppo divertente, dà l'idea di questo paese, delle contraddizioni veramente incredibili. E pensa che in un'azienda biodinamica, un'azienda vinicola biodinamica molto, molto nota, che si chiama la Cascina degli Ulivi, dove diciamo c'è un antesignano dell'agricoltura biodinamica in Italia, aveva piantato tre piante di pesco nel vigneto, proprio per diciamo motivi filosofici della filosofia biodinamica. Sì. E tu pensa che dall'alto hanno ripreso la regione o la provincia forse di Alessandria, ha fatto delle riprese aeree, satellitari, con le foto satellitari, e ha visto che risultavano tre peschi in questo vigneto. Ebbene, gli ha ritirato assolutamente la DOC, cioè l'esclusione dalla DOC, e l'esclusione anche dai finanziamenti per basso impatto ambientale. Dico, ecco, queste sono le contraddizioni che avvengono in questo paese, nel senso che si danno dei fondi a chi invece usa tutta una serie di preparati nei vigneti o d'altro, e che sono ad alto impatto ambientale, mentre chi cerca di fare un'agricoltura molto pulita, se vogliamo tornare anche alle origini, gli viene tolta la DOC, ed è veramente... Ma questo non può avvenire perché c'è una scarsa conoscenza invece di quello che deve accadere, per cui si applicano delle regole che in realtà non hanno a che fare col sapere. Forse anche questo, oppure si applicano delle regole che probabilmente sono, come posso dire, matematiche, cioè nel senso che si danno delle regole senza pensare che ci possono essere anche delle deroghe, ovviamente, delle peculiarità legate a qualcos'altro. Mi prendo spunto da questo, sì, perché diciamo che il discorso dei vini cosiddetti naturali, tu sai che anche questa è stata una grande contraddizione, nel senso che vengono sequestrate tutte le bottiglie dove c'è scritto vino naturale, perché non esiste in Italia una normativa che indica i vini naturali, perché assolutamente appunto non ci sono così dei disciplinari a, sì, cui rifarsi, e così se tu metti sul vino naturale ma non puoi neppure mettere ormai vino biodinamico, perché sulla biodinamica non esiste un disciplinare, una regola, mentre sì, esiste finalmente per il biologico, e anche qui l'Unione Europea diciamo che è andata veramente fuori dal vaso, come si dice, perché ha approvato una quantità di solfiti veramente enormi. Ecco, questa è una domanda che adesso ti faccio, poi magari non è il momento di parlarne perché potrebbe essere lunga la risposta, ma volevo dirti, perché non è obbligatorio mettere la percentuale di solfiti nei vini, che invece credo che lo debba essere? Ma guarda, è molto complicato, perché immaginavo. Il vino naturalmente produce tanti solfiti quanto è il limite, diciamo, dal punto di vista legale, sì, per cui tu devi sempre dichiarare che nel tuo vino ci sono solfiti. Questo quindi, sì, anche chi non aggiunge solfiti, che aggiunge zero solfiti, però ovviamente supera il limite, perché naturalmente vengono prodotti. Chi ne mette di più, tu dici, bisognerebbe, sì, mettere, secondo quanti? Me sì. Potrebbe essere un'idea. Ma sicuramente, come ti dico, ci sono delle regole sulle quali non si può assolutamente... Ma miglioreremo o peggioreremo queste regole, secondo te, in futuro, alla fine? Ma guarda, la Comunità Europea aveva una grande occasione quando ha varato la legge sul provvedimento sui vini biologici. Poteva benissimo far indicare o ridurre i limiti. Non ha utilizzato questa opportunità, anche perché... Su questo ci sono sempre le battaglie tra i vari paesi. Ci, certo, sono molti paesi che sicuramente vogliono molti più solfiti per poter che i loro vini non si ossidino ed altro. Chiaro. Quindi c'è sempre questa battaglia un po' su tutti i Vorremmo prodotti. Il gastronauta a Bruxelles a questo punto. Ecco. Ma guarda, io devo dire che su Bruxelles ho il dente avvelenato su molti provvedimenti, a cominciare con quello 43-93 che sui prodotti salumi, formaggi ed altro, che aveva impedito per un certo periodo di tempo di poter mangiare certe cose straordinarie dell'Italia, quindi sicuramente forse non è il mio posto, anche se tu pensi che io sono stato 9 mesi nella comunità tanti anni fa. Comunque, chiuso questa parentesi. È proprio perché non è il tuo posto che ti vogliamo, così si combatte, no? Altrimenti si siede. Si combattere, ma anche, cioè, queste indecenze, cioè, di veramente sono incredibili, insomma, questo del vigneto è veramente fuori. Ecco, allora ti invito a costruire una puntata intera del Gastronauta proprio su queste che sono le contraddizioni. Beh, sì, credo che sia volentieri. Particolarmente interessante. Grazie, volentieri. Grazie, presto, grazie Davide. Ciao, buona ciao. Domenica. Ciao, grazie. Anticipiamo la viabilità sul traffico di un minuto perché poi invece giocheremo con Miro in 24 minuti. Per voi la possibilità di portare a casa il biglietto della mostra a Genova Palazzo Ducale fino al 7 aprile. Miro, poesia e luce e ovviamente anche il catalogo della mostra. Miro in 24 minuti. Dovete riuscire ad associare la canzone che sto per farvi ascoltare a una delle opere di Miro e vi posso garantire che è veramente facilissimo. Io vi aiuterò. 800 24 00 24, il numero per prenotarvi, ed ecco la canzone. Finisce qui, ma tu divertiti ancora un po'. Mi fa un po' sorridere questa canzone di Caterina Caselli perché, come dicevo l'altra volta, è drammatica, ma ha questo ritmo. Rosaria, dalla provincia di Lecco, ciao, buona domenica. Buongiorno. Sempre più disperata la Caselli in questo carnevale, si sono lasciati, lei è tristissima, lui ride come un matto. Sì. Allora, capita. Allora, Rosaria, com'è il titolo dell'opera di Miro che ha a che fare con questa canzone? È facile, allora, perché è una cosa che col carnevale proprio ci sta, è quella. Direi proprio. Quindi... è il carnevale di Arricchino? Eh no. Oh no. No, non è quella. Non è il carnevale di Arlecchino, è qualcosa che ha a che fare col carnevale. Ah, ho capito. Che rabbia, Rosaria, mi dispiace. Niente, ciao. Grazie. Grazie, ciao, ciao, ciao. Alessandro, dalla provincia di Milano. Pronto? Sì, buongiorno. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Io, l'ascoltatrice di prima mi ha portato via il titolo. No, non ti ha portato via niente perché ha sbagliato, per cui ti ha aiutato, perché sennò avresti sbagliato tu. Che cos'è che ha a che fare col carnevale? La cosa più ovvia è la... Ma io direi ballerina. La ballerina. La ballerina di carnevale. A volte. Vabbè, cioè, non lo so. Io quando qualcuno mi dice carnevale, a me viene in mente subito una cosa, ma è proprio la cosa più evidente, che è la risposta, tra l'altro. Però se voi vengono in mente nani e ballerine, va bene, e non so cosa dire. Grazie Alessandro, ciao, mi dispiace. 800 24 00 24. Daniela, ciao, buongiorno. Da Genova, ciao, poi. Daniela, sei anche a Genova. Infatti, io sono stata aiutata dalle risposte precedenti. Meno male, sì. Non so se è aiutatissima, nel senso che seguo il tuo consiglio. A me quando parlo del carnevale viene in mente la maschera. Ma non so, non c'era cosa più facile però, diciamo la verità. Una cosa più facile della maschera. Appunto, è carnevale è la maschera, no? Giusto, come quando giochi con il gioco i bambini, no? Una parola associa un'altra. Se tu dici carnevale, l'associazione è maschera, giusto? O coriandoli, ecco. E quindi è la maschera, certo, ti porti a casa il catalogo della mostra Miro, Poesia e Luce, è anche il biglietto d'ingresso. e insomma poi sei anche a Genova, per cui sai già tutto. Quindi sono agevolata. Palazzo Ducale lo conosci sicuramente. Grazie, certo. Daniela, buona domenica. Ciao. Grazie. Tra l'altro vi ricordo che anche su Sky Arte HD, che è partito da poco, questo canale dedicato proprio alle mostre, ci saranno delle puntate dedicate a questa, a quella appunto di Miró. C'è la prossima canzone che vi aiuterà. Non dovete indovinare, attenzione, il titolo di un'opera di Miró, ma dovete indovinare una tecnica artistica, per cui la risposta è ancora facilissima. 800 24 00 24, attenzione all'indizio. Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma se piove due segni di Biro ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti due tipi là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde, si vede un punto lontano. Non si scappa, è il buon Dio, è un gabbiano e va verso il mare a volare. E il mare è tutto blu e una nave a navigare. A una vela, non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove li pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto, e l'aereo scende giù. C'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano, fuori da un bar, chissà dove va. Questa è una famosissima canzone di Tocchinio, tradotta in italiano, Acquarello, così si intitola, che è già una tecnica artistica. Costanza da Roma, ciao, buona domenica. Buongiorno. Allora, io voglio sapere una tecnica usata da Miró per alcune delle sue opere. Allora, questa canzone si chiama Acquarello. Adesso io ti aiuto. L'acquarello normalmente su quale supporto si usa? Sulla carta. Sulla carta, ecco. Allora io vorrei sapere una delle tecniche di Miró su carta. Che cos'è su carta? Cos'è secondo te la tecnica? Ma su carta? Non saprei proprio. Non so, tipo matita su carta, per esempio, hai capito? Ma non è la matita. Pastelli, no. Beh, sei vicina perché è un... com'è il pastelli? No. E i pastelli, ma come? I pastelli a... ad acqua. Purtroppo no. Costanza, che rabbia. Ma sei vicinissima però. Lo so. Grazie Costanza, grazie, ciao. Grazie a voi. Buona domenica, ciao Maria da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Ciao Maria, allora che cos'è, come si chiama questa tecnica che... Ci provo, pastelli a cera. No, non sono a cera, ma sono in un altro modo. Infatti, senza pastello, si chiama su carta. Non è cera su carta, ma è quella cosa lì su carta. Ecco, quell'altra cosa. Devo riprovare? Maria. Ho pensato al carboncino. Hai riprovato, no. Ma non va bene lo stesso. Va bene. Ciao Maria, grazie. Ciao Paolo da Brescia, buona domenica. Ciao Paolo. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno a te. Allora Paolo, che cos'è che mettiamo sulla carta? La litografia. Ah, ma tu la fai complicata, no, però. No, tipo, l'amica di prima aveva detto pastello a cera su carta, no? Quindi sarebbe cera su carta. Gli ho detto, sei molto vicina, non è la cera però, i pastelli può anche essere, perché anche quelli possono essere in quel modo lì. Però la tecnica si chiama su carta. Su carta. Tanti artisti, tante opere di molti artisti usano quella tecnica. Parlo di un componente, è il componente che va sulla carta, hai capito? Paolo, niente, le possiamo dire tutte, ma non... Saluto, Pensa che ce l'hai in cucina quella cosa lì. Ciao Paolo, buona domenica. Ce l'hai lì in dispensa. Maria da Genova. Non eccomi è proprio qua. Un'altra da Genova. Maria, ecco. Buongiorno. Buongiorno a te. Andiamo a Palazzo Ducale a vedere la mostra? Speriamo. Dai, allora, a parte che anche se non vinci puoi andare lo stesso, anzi dovresti andare certo, a vedere. Mi sembra ovvio. Ma a parte questo, cos'è che è su carta? Subito ero stata depistata, però a questo punto unito a pastello direi pastelli a olio. Quindi olio su carta, sì. Eccolo lì. Ok. Olio su carta, questa è la tecnica, grazie Maria, anche per te ovviamente il biglietto d'ingresso alla mostra e il catalogo di Miro Poesia Luce. Buona domenica. Grazie, buona domenica. Ciao, abbiamo poco tempo e allora io vi faccio sentire semplicemente, facciamo una cosa, abbiamo una pillola dedicata a Miro che ci racconta qualcosa della sua vita. Lo spettacolo del cielo mi sopraffà. Sono sopraffatto quando vedo la luna crescente o il sole in un cielo immenso. Nei miei quadri si ritrovano spesso forme minuscole in vasti spazi vuoti. Spazi vuoti, orizzonti vuoti, pianure vuote. Ogni cosa che è stata spogliata fino a che fosse del tutto nuda mi ha sempre procurato una forte impressione. Ho sempre bisogno di un punto di partenza, sia esso una macchia di polvere o uno squarcio di luce. Questa forma fa nascere una serie di cose. Una ti conduce verso un'altra. Un pezzo di filo può dare inizio a un mondo. Trovo i miei titoli man mano che lavoro. Allo stesso modo in cui sulle mie tele una cosa porta a un'altra. Joan Miró, 1959. Questo è il pensiero che ha accompagnato sempre l'opera di Miró e io vi accompagno a... alla fine di questa puntata per poi rimanere su Radio 24 ma riascoltarci sicuramente domenica prossima puntuali alle 10 con un nuovo appuntamento con il riposo del guerriero. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Nadia Zammitti, Carmelo Lauricella in regia e a voi per avermi ascoltato. Io vi auguro una buonissima settimana e anche buona domenica da Stefano Gallarini.